finalmente. Nel terror mi è stolto, vede acceffi di birro in ogni volto. La pila, la colonna. A piede la Madonna mi scrisse mia sorella. Sembiante. Fuori, Satana, fuori.